quando ero piccolo anch'io come voi, sparavo agli indiani e tifavo ai cowboys, perché vincevano sempre loro e sempre loro erano gli eroi. Poi ho avuto una crisi di coscienza, ho cominciato a rivedere i miei piani, ho capito che stavo dalla parte sbagliata e che forse era più giusto tifare per gli indiani. Stupenda giornata, my friend, e il trend continua a cambiare mentre proseguo con la band a suonare le canzoni che mi piacciono. Sicuro, pugni che spaccano il muro, sciuguare dimostrazioni devastanti. I presenti stupefatti gridano come i bambini quando giocano ai giardini, pubblici o al parco nascondino. Sei invece del genio dalla lampada esce Aladino. Ma non è possibile, questo cosa significa? È un abbaglio, unica spiegazione scientifica. E non mi meraviglia che sei fuori di senno, ma rimani un elemento di grande divertimento. Non meravigliarci ci riempie di limiti, ed è forse per questo che non sentiamo più gli spiriti. Non meravigliarci sai ci riempie di limiti, ed è forse per questo che non parliamo più gli spiriti. Quando ero piccolo anch'io come voi, sparavo agli indiani e tifavo ai cowboys, perché vincevano sempre loro e sempre loro erano gli eroi. Poi ho avuto una crisi di coscienza, ho cominciato a rivedere i miei piani, ho capito che stavo dalla parte sbagliata e che forse era più giusto tifare per gli indiani. Cerchi di far ridere, sei un pagliaccio intanto, io lo sono e me ne vanto, e ci campo e ne canto. Non ho intenzione di prendere sul serio tutto quanto, il copione del mondo è troppo crudele per restarvi fedele. C'è troppa gente a cui la vita nega il miele, non sarò certo io ad aggiungere alla mia del fiele. Cerca di capire, non sono io che non capisco, troppe chiacchiere hanno rotto il disco delle lamentele. Lo so, che sarei da sopprimere, ma a farmi redimere ci sono 3 miliardi di persone che forse non dovrebbero esistere. Io come voi, sparavo agli indiani e tifavo ai cowboys, perché vincevano sempre loro e sempre loro erano gli eroi. Poi ho avuto una crisi di coscienza, ho cominciato a rivedere i miei piani, ho capito che stavo dalla parte sbagliata e che forse era più giusto tifare per gli indiani. Cos'è l'arco? Cosa me ne frega? Devo tirare su una mega tega per spiegare al mio collega che erra votando Lega. Cosa? Certo posso farlo e perché no lo faccio. Certo mi daranno del pagliaccio e me ne dispiace, ma mi dispiace non taccio dinanzi ai discorsi dei politicanti parlanti a casaccio. Sono bravi attori, commediano ad arte. Oh, Goldoni, ma chi è? Un preservativo? Napoleone Bonaparte? Buono il party, sì lo so, me ne compiaccio. Peccato Arlecchino che interpreti male il Carpaccio. Quando ero piccolo anch'io come voi, sparavo agli indiani e tifavo ai cowboys, perché vincevano sempre loro e sempre loro erano gli eroi. Poi ho avuto una crisi di coscienza, ho cominciato a rivedere i miei piani, ho capito che stavo dalla parte sbagliata e che forse era più giusto tifare per gli indiani. Quando ero piccolo anch'io come voi, sparavo agli indiani e tifavo ai cowboys, perché vincevano sempre loro e sempre loro erano gli eroi. Poi ho avuto una crisi di coscienza, ho cominciato a rivedere i miei piani, ho capito che stavo dalla parte sbagliata e che forse era più giusto tifare per gli indiani.